La conferenza di Belluzzi ebbe grande successo. Per aiutarlo Silvia aveva trascurato i suoi studi, lavorando per sé soltanto la notte. Andava a dormire alle 4, si alzava alle 6:30, si rimetteva al tavolo nel puro silenzio del mattino, apriva con fatica le cartelle, lancinata da un sordo dolore nella schiena che l'obbligava ogni poco a rialzare vivamente il busto. Alla vigilia il professore gliel'aveva letta, lui in piedi dietro la scrivania, lei seduta nella poltrona. Una prova generale, con le mosse addirittura. Quei brevi gesti secchi, ritrosi, che gli usava quando parlava in pubblico. Venga a sentirla. E le aveva dato il biglietto d'invito. Poi venga qui da me, a casa. Ella andò e si sedette nell'ultima fila. Molta gente elegante in quella gran sala adorna di specchi e dorature. Sul soffitto paffuti angioletti danzavano, reggendo grevi corone di rose. Tra gli invitati tutti si conoscevano. Silvia si sentiva isolata. Gente accanto a lei la scrutava dall'alto al basso, intimidendola. La signora Dora aveva preso posto in prima fila dove c'erano le poltrone dorate, ma ogni poco si alzava per andare incontro alla gente come se fosse la padrona di casa. Indossava un abito verde, in testa un grande cappello nero con una lunga piuma verde che ondeggiava mollemente quando lei piegava la testa per salutare. Un brusio alto, un fitto cicalare. Sulla pedana, la poltrona rossa e il tavolo con la bottiglia attendevano. Silvia sapeva che il professore si agitava ogni volta che doveva parlare in pubblico, sempre come se fosse la prima volta, perciò avrebbe voluto trovarsi con lui nella saletta dove egli aspettava solo o con gente che lo infastidiva. La signora Dora ora riceveva due signori alti e bianchi, vestiti di nero, che dovevano essere importanti, perché la gente si scostava lasciandoli passare e dietro di loro commentava a bassa voce. I due signori importanti si sedettero nelle più vistose poltrone, gomito sul bracciolo, mano al viso, in attesa. Anche la signora Dora sedette e dietro di loro il pubblico al quale ogni tanto lei rivolgeva occhiate d'intesa e di compiacimento. Piano la porticina si aprì e Belluzzi apparve frettoloso a capo basso. Salì sulla pedana. Salutò con due piccoli cenni della testa il pubblico che applaudiva. Anche i due signori importanti batterono le mani leggermente e dopo un colpo di tosse lui cominciò. Silvia seguiva il moto nervoso della mano del professore che voltava i fogli della conferenza. La loro fatica. Negli occhi degli uditori già si scorgeva affermarsi il successo. I due signori molto importanti ascoltavano, tesi. Tra un quarto d'ora tutto sarebbe stato finito e Silvia, tra pochi giorni, avrebbe dovuto ricominciare a correre in biblioteca e ricercare per lui i dati per una difficile monografia. Quando Belluzzi finì di parlare, la folla s'addensò dinanzi alla pedana, come gli studenti dopo la lezione. Silvia restò qualche istante in piedi nel fondo della sala, guardandolo sorridere e ringraziare. Deve essere un bel momento questo per lui. Chi sapeva che quella donnetta nera aveva lavorato con Belluzzi, lei soltanto lo sapeva. Lentamente uscì dalla sala, discese la grande scalea, i valletti la guardavano sorpresi, come mai costei è venuta qui? Ma Silvia si sentiva ebbra, come per un successo suo. Vide Belluzzi il lunedì seguente alla conferenza, perché il giorno appresso era festa e lei restò al Grimaldi a non fare nulla, neppure studiò. Non trovò il professore in casa. Sul tavolo c'erano biglietti, telegrammi di congratulazioni. Li lesse compiaciuta, standosene in piedi, presso la finestra. L'estate non entrava nella casa del professore. La stagione si annunciava solo con le fodere bianche che vestivano le sedie. Quando gli giunse le mosse incontro a mani tese, sa che sabato tornai subito a casa per lei? Non è venuta alla conferenza. E allora potrei anche dirle che è andata male, vero? No, professore, non potrebbe perché c'ero. Ho seguito tutto col batticuore e me ne sono andata felice del suo successo. Come? C'era e non è venuta a salutarmi? Ah, oh, tanta gente, professore. Ma lei non è tanta gente, cara Custo. Mi troverò molto male quando lei avrà preso la laurea e se ne andrà. Io resterò, professore. Non è possibile. Lei deve farsi la sua strada, no? Che cosa potrebbe offrirle il rimanere con me? Perdere qualche anno. Nulla di più. E nella vita non ci sono mai anni da perdere. C'è tempo per pensarci, professore. Sì, C'è tempo. Dopo una breve pausa, seguitò guardando il cielo. È arrivata d'improvviso l'estate quest'anno. Me ne sono accorto oggi, accompagnando Dora alla stazione. Tacque poi aggiunse: È partita. Oh, mi dispiace. Sì, e io pure partirò tra breve. Anche lei con la signora d'abbazia? Oh no, una mia casetta in campagna nel Veneto, vecchia e malandata. Era la casa di mio padre e io mi ritrovo bene lì ogni anno. Direi quasi che mi sento ringiovanire, forse perché vi ho abitato da ragazzo. Sono le cose intorno a noi che fanno l'età, vero, Augusto? E poi ci vuole un poco di respiro prima di riprendere l'anno. E la signora verrà a raggiungerla, naturalmente. Oh no, no, ci venne un anno per farmi piacere, ma s'annoiò tanto, povera Dora, quasi ne fece una malattia. Sorrideva al ricordo. Come potrai pensare di sacrificarla così? Sa, Dora è molto diversa da noi. Un altro carattere, a lei piace la gente, il movimento, le cose inutili. È così piena di vita, Dora. È così donna, donna proprio, proprio donna. Ecco, che si può dire di più? Accanto a lei io non posso parlare del mio lavoro e ciò mi riposa. Noi che pensiamo, studiamo sempre, dobbiamo avere accanto una persona che non pensi affatto, se no soffocheremo. Per me, quando ritrovo Dora a pranzo la sera, è come se prendessi una boccata d'aria fresca. Quella sua meravigliosa ignoranza di cose che per noi sono vitali mi dimostra che ogni arte è essenziale solo per chi la fa. Ma non so, professore, forse. Lei è ancora molto giovane, se ne accorgerà anche lei. Il professore aveva detto donna proprio, proprio donna, ecco. E Silvia non capiva ancora se questo voleva essere una lode o un benevolo compatimento. Da qualche giorno la signora Dora non telefonava più, si chiudeva in camera sua a scrivere sul delicato scrittoio maggiolino lunghissime lettere che chiudeva in buste allungate, violette. Scriveva ad abbazia ed oggi era partita. Donna, proprio donna, ecco. Quando Silvia era bambina, amava giocare a correre con i maschietti della sua età, mentre le sorelle intrecciavano ghirlande, ricamavano, ascoltavano le favole accanto al caminetto. Ella tutt'al più cuciva fronzoli alla sella del muletto, e se intanto le serve narravano, si fermava ad ascoltare. Quando erano storie di banditi, pregava: Continua! Al mattino, indossati i calzoni del fratello maggiore, andava a cavallo lungo il canale, poi, legato il cavallo, si stendeva sul prato a leggere o a pensare. A 13 anni chiese alla madre d'improvviso: Ditemi, mamma, sono proprio brutta, vero? Chi ti dice questo? Lo hanno detto certe ragazze che giocano con le sorelle. Ridevano, anche le sorelle ridevano e insistevano: Non l'avete vista con i calzoni del nostro fratello? È un maschio anche lei. Perché dai ascolto alle chiacchiere, Silvia? E allora ditemi voi, sono proprio brutta, vero? La madre le carezzò i capelli e disse: Nessuna creatura è brutta che nasce nel segno di Dio. Poi la mandarono in città. Le sorelle restarono nella grande cucina ad aspettare il marito. Immacolata era già promessa. Hanno fatto bene, io non sarei stata una buona moglie. Non saprei vivere aspettando che una porta si apra e il marito venga a parlarmi di cose che non mi interessano, che forse non interessano neppure a lui. Non sono una boccata d'aria fresca. Potrei sposare soltanto il bandito che portasse sulla sella anche me, ma pure in quel caso credo che preferirei avere il mio cavallo e galoppargli accanto. Ritrovò le compagne dopo la preghiera. La cappella era fresca, satura di odore di giglio. Ai primi caldi dell'estate la madre superiora in cappella si lasciava cogliere dal sonno. Augusta, che riceveva le confidenze di suor Lorenza, disse che si parlava di rimandarla a Genova, alla casa madre, dove stavano tutte le monache vecchie aspettando di morire. Che farà? Chiese Valentina. Nella casa di riposo. Quello che fa qui, niente. Stanno sulla terrazza al sole, pregano, hanno una cura gelosa del proprio stomaco, del proprio intestino. Tutte vecchie così? Tutte, disse Augusta. Oh, deve essere terribile. Esclamò Emanuela, vedere scomparire una delle compagne, il posto accanto al proprio. Qui la compagnia di noi giovani doveva darle un senso di sicurezza nella salute. Non tanto, replicò Silvia. Forse invece la nostra gioventù le dava coscienza della sua vecchiaia. Lì sono tutte uguali, tutte inoperose. Quando qualcuno muore, le altre hanno l'avida gioia di sentirsi ancora vive, di resistere, simile al brivido che ci dà il pericolo che ci ha evitato sfiorandoci. Adesso, qualche volta, dopo la preghiera, le ragazze uscivano a discorrere nel cortiletto. Sul cielo, ancora chiaro, neppure si vedevano le stelle che più tardi invadevano la notte. Nella camera che era stata di Milly, adesso abitava una ragazza che suonava il violoncello. C'era la luce accesa e si udivano da lassù cadere le note strascicate di una barcarola di Offenbach. Le ragazze stavano bevendo la notte e la musica, quando Vinka, che era salita a prendere il giornale, ridiscese con il cappello in testa, pallida, stravolta. Mostrò alle amiche il giornale che aveva in mano. Diceva che la Spagna era in guerra. «Voglio uscire!» esclamava smaniando. «Esco, vado da Luis, anche lui avrà letto i giornali!» «Oh, Vinka, è tardi ormai!» E che mi importa? Esco, dormirò da donna Inés. Ma ha detto che quando voglio posso andare a casa sua con Pilar. Che mi importa di dormire? Debbo uscire. Precipitosamente corse nell'ingresso e si trovò davanti alla suora portiera che già spegneva la luce. Suora, mi lasci uscire. Uscire a quest'ora? Sei pazza? Debbo uscire. C'è la guerra da noi, capisce? Non posso stare qua dentro. Lei deve aprirmi subito. Di notte? Ora sono quasi le 10. Non è possibile, Vinca. Uscirei domattina. E chi potrebbe dormire? Mi apra, suora, le dico. Picchiava rabbiosamente alla porta. La vecchia suora aveva suonato la campanella e suor Lorenza era accorsa. Vinca, che hai? Debbo uscire. Bisogna che esca, capisce? Da noi c'è la guerra, bisogna che anch'io vada con gli altri. Dopo la notizia si saranno riuniti. Quali altri? Gli altri, tutti, perché mi guarda così? Sì, anche Luis, perché mi fa quella faccia? Che non lo ha sempre saputo di Luis? Ora gridava. Insomma, mi lasci uscire, ho detto. Suor Lorenza cercava di calmarla. Non vuoi telefonare piuttosto? Vieni, uscirai domattina. Ma Vinca seguitava a bussare con i pugni sulla porta. Mi apra, suora, mi apra. Abbia pietà. E se partono? Ha detto che al primo annuncio raggiunge la falange. Che diritto ha lei di tenermi chiusa qui dentro, suor Lorenza? Anna ed Emanuela intanto la convincevano a risalire e quella insisteva: No, Emanuela, no, proprio tu non devi farmi così. E se partono? Se parte, che faccio io? Di, Emanuela. La trascinarono in camera che gridava, smaniava. La guerra, proprio la guerra, io chiusa qui dentro, sepolta viva. L'ho sempre detto che mi sentivo prigioniera. E se lui sparte? Ma non è possibile, pensaci, che parta così all'improvviso. Oh, tutto è possibile per lui. Mi lascia un biglietto, sai come fa? C'è la guerra, capite? Parte per la guerra. Deve partire per forza. E come potrebbe restare? Parte, ha ragione. Prima era la rivoluzione nelle Asturie, lontano da casa nostra, ma adesso si battono dove abbiamo sempre vissuto. Parte, non lo vedo più, dite. E se me l'ammazzano? Singhiozzava e le altre si ammutolivano. Sentivano che la guerra era una catastrofe solamente sua. Per la prima volta s'accorgevano che Vinca era una straniera. La rovina del suo paese non le toccava. Come se fosse malata, la spogliarono, la misero a letto. Suor Prudenzina portò un'altra candela, una tazza di camomilla. Quando la vide, Vinca le gridò avventandosi: Potevate lasciarmi uscire piuttosto? E poi, volta alle compagne: Non vi sentite tutte prigioniere? Si soffoca qua dentro, si soffoca tra queste vecchie zitelle consacrate nel loro egoismo. Il suo singhiozzare si smorzò in un pianto lungo, taciturno. Accanto a lei le compagne parlavano piano. Silvia leggeva l'articolo del giornale. Brutta faccenda, pensava storcendo la bocca. Poi uscirono caute. Ma udendole andarsene, Vinca aprì gli occhi sgomenta, s'aggrappò alle mani di Emanuela e chiese con un filo di voce: Dimmi, è vero che hanno inventato certi gas che fanno diventare ciechi? Luis partì dopo una settimana, regalò a Vinca una carta geografica della Spagna e le bandierine nazionali per seguire l'avanzata. Anche Pepe partiva e Ignacio. Altri due che davano la laurea in ottobre li avrebbero raggiunti subito dopo. Però Luis diceva: Per quell'epoca siamo già di ritorno, che vi pare? Verremo perché ci paghiate da bere il giorno della laurea. Non ve la cavate così. Adesso che andiamo noi, la guerra si vince in una settimana. Scherzavano. Anche Vinca tentava di scherzare. Però ogni momento chiedeva a Luis: Mi scriverai? Sempre mi scriverai? Li lasci a me i progetti? E poiché lui aveva gettato via le vecchie pantofole, Ella raccolse anche quelle per conservarle. Vinca sarebbe andata ad abitare con donna Inés. Sì, vieni, cara, le aveva detto. Così non mi rimane sola la mia Pilar. Tutti insieme, tutti insieme. Non si può restare tra estranei che non capiscono quello che noi stiamo passando. Era ricca donna Inés, però nella sua casa di campagna a Othuna i Rossi avevano fatto una specie di quartier generale. Quelle belve in casa mia. Lì c'è il ritratto del re con i figlioli, firmato Alfonso XIII. Dove starà tutto questo? E la Virgen de Guadalupe, che stava sopra il letto dei ragazzi? Vinca, esaltata dal cambiamento, neppure si doleva di lasciare le amiche. Suor Lorenza aveva trovato per lei alcune lezioni di spagnolo e lei, riconoscente, le aveva baciato le mani. Di studiare ormai non parlava più. Il padre si era rifugiato con la moglie in Portogallo e da lì aveva telegrafato alle suore che consentiva a Vinca di andare ad abitare da donna Inés. 2 giorni prima di abbandonare il collegio, Vinca girava già per le stanze salutando le compagne. Non mi sembra di lasciarvi, poiché rimango a Roma, diceva. Ci vedremo sempre, ogni giorno. Chissà che dopo l'estate non ritorni in collegio. Distratta da tanti avvenimenti, neppure più si preoccupava della partenza di Luis. Era come un incubo svanito. S'accorse che gli partiva veramente il giorno in cui, entrando nello studio, lo trovò che preparava le valigie. Era solo. Pepe aveva condotto via Pilar, che non aveva potuto reggere ai preparativi della partenza. Già? Chiese e impallidì. Domani sera partiamo. Alla frontiera sapremo la destinazione. Se ne andava, veramente. Nel giornale di ieri Vinca aveva letto 119 morti in uno scontro, molto lontana la Spagna, almeno 3 giorni per avere una lettera. Scriverai, amor mio? Sì, quando potrò. Quando potrò. Forse un giorno non avrebbe potuto. La guerra. Al fronte si va per combattere. Niente posta oggi. Forse neppure Pilar avrebbe ricevuto notizie di Pepe, né donna Inés del figliolo di Ignazio. Il giornale avrebbe recato notizie tremende, 2.000 morti e niente posta oggi. Per le strade la vita sarebbe continuata pacifica anche se non arrivava posta di Luis. Ascolta, Luis, dimmi, io ti amo. Era la prima volta che glielo diceva. Il giovane smise di piegare le cravatte, la guardò e vedendola così tremante. Le si avvicinò e la strinse a sé. Nelle braccia di lui Vinca scoppiò in pianto. Egli le batteva piccoli colpi affettuosi sulle spalle e lei sentiva che erano mani diverse da quelle mani del cinematografo. Domani a quest'ora non sarebbe stato più qui. Luis, porti con te la mia fotografia. Certo, quella che ti feci a Gianicolo quel giorno che poi si litigò. Che altro posso darti? Tieni, questa è la mia penna stilografica. È quella con la quale prendevo appunti in facoltà, non mi serve più. Portala via, se no come farai per scrivermi dal fronte? Ricordi bene l'indirizzo di donna Inés? Sì, certo. Con dolcezza egli l'accarezzava per calmarla. Il sole ultimo calava sulla vetrata e l'accendeva, come quel giorno che Luis chiese a Vinca: Vuoi salire? Adesso Luis partiva per la guerra. Luis, Vinca. Ricordi quel giorno quando venimmo a vedere lo studio dalla strada? Quando? La prima volta e io non volli salire. Si stringeva a lui, gli accarezzava il collo, i capelli. Sì, mi ricordo. Vinca lo baciava sul collo, gli soffiava le parole sulla gola. Senti, diceva, e aveva una nuova voce adesso, più ferma. Tu parti, Luis, è vero, tu parti. Lo fissava con occhi disperati. Vuoi? Vuoi? Egli esitò dapprima. Che cosa, Vinca? Finché vedendola così tremante, il viso molle di pianto capì. Scosse la testa, la trasse di nuovo a sé, le prese le mani. No, Vinca, no. Ma voglio io, perché non vuoi? No, disse scrollando la testa. Era altra cosa allora. Adesso si parte, c'è la guerra. Perché non vuoi? Io ti amo, non senti quanto ti amo, Luis? Sì, lo so, egli fece seriamente, ma adesso c'è la guerra. Tornerò, sai. O tu verrai laggiù, tutti torneremo al paese. Non ti ricordi i discorsi che facevamo dell'Andalusia? Tu mi aspetti, io ritorno. Il sole aveva abbandonato la vetrata, lo stanzone nudo s'era fatto grigio, pieno di angoli d'ombra, e Vinca, vinghiata al collo di Luis, singhiozzava. Non me dejes, Luis, non me dejes. Non mi lasciare. Dino glielo ripeteva spesso. Vedrai a Sanremo che albergo. Io, sai, quando viaggio sono abituato a viaggiare bene e mi piacciono le donne a posto. Così aveva fatto accettare a Xenia due vestiti e molte paia di calze. Partirono il pomeriggio di un sabato. La sera prima avevano cenato con Vandina e dopo anche Horsch era venuto. Gli uomini si erano messi a parlare d'affari e le ragazze ne avevano approfittato per farsi confidenze. Vedi, Xenia, sono felice della tua fortuna. Fortuna? Sì, questo che ti capita, il viaggio, i vestiti, e poi, vedrai, non finirà qui. Non sarai mica innamorata di Dino. No, ma mi piace, ecco. Meglio, proprio quello che ci vuole. Hai visto che fa certe volte il destino. Tu vai a presentarti per lavorare, incontri un'altra, una poveraccia come te che cerca lavoro, si fanno due chiacchiere, si diventa amiche e poi una cosa tira l'altra. Vedi come sono io? L'ho capito subito che eri un tipo fine e saresti piaciuta. Un'altra al posto mio magari ti avrebbe lasciata a sbrigartela da sola. Io invece sono contenta quando vedo le persone felici. A Sanremo andate. Oh, metti un Luigi per me sul 22, è il mio numero. Tutto m'accade il 22. Sono nata il 22 aprile, poi un altro 22, sì. Insomma, mi capisci, voglio dire che se morivo il giorno dopo quel 22, non sarei più potuta salire in paradiso a cantare nel coro degli angeli. E un 22 ho incontrato il mio amichetto quando avevo 22 anni. Che te ne pare? Aspetta, aspetta, un 22 ebbi un piccolo incidente d'auto che mi ha fruttato 400 lire dall'assicurazione per un taglio al piede. E poi il dottore fu molto carino e neppure mi fece pagare. Horsch tacque in principio. Più tardi Dino disse a Xenia che l'amico aveva i nervi per certa sua bega, sempre sul filo del rasoio lui. E quando credi che se ne vada sotto, è allora che meglio si regge in equilibrio. Si rianimò dopo due o tre whisky e anzi beve alla fortuna del loro viaggio. Tutti sapevano che partivano insieme e questo metteva Xenia a disagio. Aveva scritto a casa che partiva, per l'ufficio, naturalmente, così avrebbe potuto mandare qualche cartolina e l'impiegata della posta l'avrebbe raccontato all'intero paese. Giunsero a Sanremo per l'ora di pranzo. Avida, durante tutto il percorso, Xenia aveva guardato di qua e di là senza parlare, per non distrarsi. Solo talvolta si rivolgeva verso il compagno, gli prendeva le mani, gli diceva grazie, oh grazie. E poi di nuovo tornava ad ammirare avidamente il paesaggio, lasciandosi scorrere le immagini veloci negli occhi. Non poteva impedirsi di pensare, io arrivo sempre dove voglio. Correvano lungo la costa, uscivano, entravano in gallerie, una svolta ed era un paesino ordinato, le casette rosse con le false finestre dipinte sul muro, altra svolta e si trovavano soli tra le rocce, altra svolta e giù, giù dal monte scendevano terrazze digradanti di ulivo e di fiori e sotto il morbido sventolio della mimosa i gerani e le cappuccine scaturivano dalle rocce color di porpora e d'oro come i drappi dei giorni di festa. Ma egli non era entusiasta di tante esclamazioni. Parlava della macchina. Hai visto? 100 di media. E il consumo? 7 chilometri. Quanto una vetturetta utilitaria, quasi. All'albergo Dino entrò da padrone. Ebbero due camere vicine e un bagno tutto bianco e lucido. È molto gentile, Dino. Xenia si disse, giungendo le mani per la gioia, e stupì pensando. Due camere? Forse è un viaggio d'amici. Così si usa adesso. Cenarono nella sala da pranzo dell'albergo, alquanto vecchia, dove suonavano musiche classiche per violino. Bevi! Egli la spingeva. E Xenia godeva nel pensare che quella macchina, alla quale scriveva per ore, fino ad avere alla spalla un dolore trafiggente come uno spillo infuocato nella carne, quella macchina che le spezzava le unghie era lontana, a Milano, e lei a Sanremo. Aveva ragione Dino, proprio un vecchio gufo quel direttore. Ora gli avrebbe chiesto se si poteva ritardare ad entrare in quell'altro ufficio della cementazione. Le avrebbe giovato molto un mesetto di riposo. Presero il caffè, quasi senza scambiarsi parola. Poi egli le gettò via il tovagliolo e uscirono nella limpidissima notte. Tanti anni che Xenia non vedeva il mare. Quando vi era andata per l'ultima volta aveva forse 12 anni. Una gita di un giorno, un torbido viaggio nel treno arroventato, nelle stazioni l'afa prendeva alla gola. Ma giunta sulla spiaggia, il vento le recò un fresco odore di scoglio che disciolse in lei ogni stanchezza. Era un mare piatto e lucido. Certe virgole scure che si vedevano all'orizzonte erano le paranze. Il sole ultimo faceva allargare sul piombo violaceo dell'acqua chiazze di luce sanguigna. Xenia avrebbe voluto vedere il sole coricarsi, il mare spegnersi, ma i genitori la trascinavano. Papà volle entrare subito in una trattoria rinomata per il pesce fritto. Andiamo a vedere il mare? Il mare? Oh, Xenia, non lo vedi di qui il mare? C'è bisogno di camminare fin lì. Andiamo piuttosto a giocare qualche Luigi al casinò. Il casinò. Una specie di grande ufficio, i tavoli gremiti di gente sotto il paralume verde. Tutti stavano zitti, si udiva solo di tratto in tratto il saltellare della pallina nella roulette, la voce del croupier. I giocatori perdevano, vincevano, impassibili al sopraggiungere di Xenia e Dino, al rumore dei loro passi, quelli che erano seduti attorno al tavolo levarono verso di loro sguardi astiosi. Molto difficile. E la chiese a Dino. Semplicissimo, metti uno di questi gettoni sopra un numero, vediamo che numero. Il 22, perché Vandina. Ecco, 22. Adesso aspetta. Dopo un momento esclamò. Hai perduto. Rimasero 3 ore lì dentro. Xenia era stanchissima. Quasi sempre era stata in piedi vicino a Dino, il quale, divenuto di pessimo umore, aveva cambiato posto 2 volte. Quando finalmente incassò un grosso colpo, neppure si volse verso di lei, soltanto arrossì. Adesso ella avrebbe voluto dire andiamo a vedere il mare, ma pensava che egli non avrebbe voluto e poi era stanca, aveva sonno, era ansiosa di giungere in albergo per conoscere che cosa l'attendeva.